sera suonerò la mia musica, i miei ritmi. In Repubblica Ceca, a Most, discoteca club Palladio. Discoteca club Palladio, a Most, in Repubblica Ceca. Oh,

Io credo che il nostro lato emozionale segua un suo percorso, non dettato dalla ragione. Per fortuna. Per fortuna. www.gigidag.com e fai la votazione. Per votare basta cliccare, ti si apre la paginetta e scegli la canzone. Chi vota poco resterà piccino. Il sondaggino di Gigi D'Agostino. Stai ascoltando Tiempo. Artista Luca Nois. Posizione numero 8. musica sono solo delle scelte momentanee degli ascoltatori. Una canzone la scegli in base a come stai, a dove vai, a cosa sei in quel momento. fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Suonerò la mia musica, i miei ritmi, in Repubblica Ceca, a Most, discoteca club Palladium. A Most, in Repubblica Ceca, discoteca club Palladium. Ci vediamo lì. Ci vediamo lì. Bello, bello, bello questo qua. Bello, mi piace. Cos'è? Why me? Artista? Dos. Posizione numero? Sì. Pubblicità, tararatata, pubblicità, tararatata, pubblicità, tararatata, pubblicità, tararatata. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Numero 3. Bagar. romantico sinfonico. Tutta apparenza, solo una maglia, non c'è cambiamento.